Orizzonti. Fotografie sonore dalla Campania multiculturale. Che lavoro fai? Come ti chiami? Come inizia la tua giornata? Siamo tutti diversi o siamo tutti uguali? Dimmi tre ricordi che porteresti con te ovunque. Quante lingue parli? Qual è secondo te una cosa inspiegabile dell'Italia? Gli alieni ti danno uno speciale raggio laser per togliere la cosa più brutta del pianeta. Che cosa vuoi togliere? Qual è il tuo colore preferito? Cosa vedi all'orizzonte? Ehi! Che siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino! In questo episodio, Iracli. Mi chiamo Iracli. Mi occupo con il mio canto e il mio studio. Sono cantante lirico. Studio in Conservatorio di Martucci a Salerno. Quest'anno finisco triennio e faccio laurea. Ho 35 anni. Quando esco dalla casa, prima cosa che vedo io è sole. Vivo in Italia perché sono venuto per studiare. La mia giornata inizia, mi alzo la mattina presto, faccio colazione, mi preparo per andare in conservatorio. Così inizia la mia giornata, in mezzo riposo un po', poi continuo a studiare e la giornata finisce con la mia famiglia. No, non sono nato in Italia. I miei genitori sono georgiani. Quando mi chiedono di dove sei, rispondo: sono georgiano. Parlo due lingue, georgiano e italiano. Per me la canzone Sotto la doccia non si canta. Dalla pianura porto l'amicizia, l'amore e pace. Racconto tutta la storia di mio paese. No, non siamo tutti uguali, purtroppo. Toglievo la povertà e anche invidia. Purtroppo oggi parole straniere esiste. Io devo dire, noi siamo tutti figli di Dio. Colore bello nel mondo, più bello nel mondo per me c'è rosso, verde e bianco. E bianco è colore di purezza e rosso e verde per me mi dà un po' di allegria. Quando vedo l'orizzonte che vedo, vedo la mia futuro. Chissà, chissà, domani, su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non esser così seri, rimani. Montaggio, regia e suoni di Antonio Cortazzo e Giulio Scalona. Coordinamento tecnico Bahia Lahbub. Per ascoltare e condividere i nostri podcast, vai sulla pagina Facebook di Radio Antenna Migrante o su www.stranierincampania.it. RAM, Radio Antenna Migrante.